tanto facile, sembra un mondo piccolo, sguardi spesso tutti uguali, dimmi dove sei e dimmi cosa fai per vivere, non te lo chiedi mai, come stai? Siamo in cerca di contatto, ma non ci si prende mai, il contempo che ti sfatto nella solidità, ma se non trovo mai, devi scegliere, non te lo si chiedi mai, che cosa tanto facile, sei il mio mondo piccolo.